Ciao a tutti cari amici di Radio Tutti Fermi, sono Stefania di Quarta D. Voglio parlarvi di una storia un po' particolare, la cui protagonista è Christian F. Protagonista di un film molto drammatico, I ragazzi dello zoo di Berlino, diretto dal regista Uli Edel, è uscito nel 1981. Si ispira alla storia di Christian Vera Felskerino, da cui è stato trattato il libro basato su interviste compiute da due giornalisti durante il suo processo per consumo e spaccio di sostanze stupefacenti. La trama del film segue in maniera molto meno completa, ma tuttavia fedele, quella del libro. Christian vive con la famiglia in un piccolo paese vicino ad Amburgo, per motivi economici dovrà trasferirsi a Berlino. Qui la situazione non cambierà molto. Per Christian le cose si aggravano per la separazione dei genitori. Dopo aver stretto una forte amicizia con Cassie, Christian comincerà a frequentare posti inadatti alla sua età, caratterizzati dal largo uso di sostanze stupefacenti. Durante l'esperienza all'Hausdermit, Christian userà a 12 anni l'hashish. Con Cassie frequenterà anche il Sound, definita la più moderna discoteca d'Europa, ma in realtà luogo di spaccio.